Mix 24 Estate di Giovanni Minoli. Ben trovati su Mix 24 Estate. Anche oggi parliamo di musica e storia. Siamo nel 1962 con Alessandra Fiori e Franco Schipani. Ecco, Franco, come inizia questo 62? Protagonista assoluto del 1962 è un nuovo ritmo che fa più o meno così. Buongiorno Franco, ma quindi siamo al twist? Siamo arrivati finalmente al twist, cara Alessandra. Ma è strano come ballo il twist, come nasce? Come nasce? Dunque, nasce per fortuna, perché qualcuno ci ha creduto. Pensa che questo brano era in una canzone che si chiamava The Twist di Hank Ballard, che era un rock guitar statunitense. Ecco, lui in questo ritmo non ci credeva e lo ha messo sul lato B di un 45 giri sconosciuto. Invece ci ha creduto Chubby Checker, Chubby che vuol dire grassottello. Hai capito Chubby? Attenzione, che era un cantante rock all'epoca, insomma, mediamente famoso, però sconosciuto al grande pubblico. E ha detto, ma io in questo brano ci credo. Mi pare, cara Alessandra, che abbia avuto ragione. Ha avuto un po' ragione, perché ha un successo pazzesco anche in Italia. Lo sai che ancora adesso, per esempio, i genitori, no? Quando sentono il twist, gli parte un pochino la gambetta. Gli parte. Senti, ti volevo dire una cosa a proposito di questo twist. È andato, quando in televisione, in America, negli anni 60, facevano vedere il twist, lo facevano vedere, c'era Chubby Checker, che era di colore, ovviamente, che cantava. Ecco, nell'audience non c'era uno di colore. Erano tutti bianchi, tutti quelli che hanno cominciato a scopiazzare per poi portare questo ritmo addirittura nei Beach Boys. E ti ho detto tutto, mia cara. Allora, e quindi tutti col twist e poi? Direi proprio di sì. Beh, senti. A Saint-Tropez, la luna si desta con te e balla il twist contando le stelle nel cielo. Ma la stella ancora più bella non è in cielo, è qui vicino a me, a Saint-Tropez. Ma la stella ancora più bella non è in cielo, è qui vicino a me, a Saint-Tropez. Twist, twist. Franco, quindi 1962 l'Italia balla il twist. Però, Franco, l'Italia si diverte e balla in generale, perché il 62 è l'anno migliore del boom economico. A gennaio il PIL è a più 8.6%. Scusa, ripeti. Dimmi. Quanto? 8.6% sul 61, che era già in crescita. Insomma, il confronto con i dati di oggi fa rabbrividire. Ti rendi conto? 8.6. Insomma, l'Italia del 62 cresceva come la Cina di oggi, praticamente. La Cina. La Cina, Franco. Peccato che all'epoca non avessero già cominciato a copiare o a fare cose o no, perché secondo me questo twist l'avrebbero copiato alla grandissima. Comunque, non mi vorrei dire che prendiamo qualcosa dai cinesi in termini di musica? Ma io, guarda, la prima volta che ho sentito il karaoke, io ero a New York e ho visto dei cinesi che cantavano Elvis. Io telefono in Italia e dico, ho visto una cosa meravigliosa qui nel West Village, eccetera. Ma Franco, come si chiama questa cosa? Karaoke. Ma non funzionerà. Non può funzionare. Ma per carità, ma non se ne parli neanche. Comunque, vogliamo sentire un altro po' di twist? You better come home, Speedy Gonzales. Why don't you come home, Speedy Gonzales? How come you leave me all alone? Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il twist. Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo ballo il twist. Le ginocchia scendono, le mie gambe tremano. Forse sono brividi, brividi d'amore. Renato, Renato, Renato, ti voglio bene, non l'hai capito. Renato, Renato, Renato, se non mi baci non vivo più. Renato, Renato, Renato, a casa. Contagioso a tutti i livelli questo twist. Abbiamo sentito Speedy Gonzales di Pat Boone, guarda come dondolo, di Vianello, e addirittura Mina con questo Renato, Renato, Renato. Renato. Dunque, Franco, si balla il twist, ci si diverte molto e sarà per questo che nascono anche moltissimi bambini. La popolazione italiana, infatti, nel 1962 cresce moltissimo. Nascono 937.257, guarda bene, 57 bambini. Un picco di crescita che non si raggiungeva dal 1932. Sai quanti bambini sono nati nel 2015? Non ne ho la più pallida idea. 488.000, secondo l'Istat. Un anno veramente nero per le nascite. Mai così male dall'unità a oggi. L'autostrada del sole si apre la via verso il sud. Il presidente della Repubblica, Antonio Segni, accompagnato dal presidente del Consiglio Fanfani, inaugura il tratto Frosinone-Capua, che completa il percorso Roma-Napoli di 200 km complessivi. L'eccezionale opera portata a termine in un tempo record, benché sia stato necessario costruire 32 fra ponti e viadotti, è costata più di 2 milioni di giornate lavorative. Questo, che come ha ricordato il presidente Fanfani, è un altro passo avanti nel definitivo allacciamento fra Milano e Napoli, è uno dei percorsi meglio serviti dal punto di vista del comfort per l'utente. 6 stazioni di servizio e di ristoro con impianti funzionali e personale specializzato rappresentano i fari della sicurezza per chi viaggerà sul lungo nastro d'asfalto. Si accorciano così le distanze e si aprono nuove convenienze di mercato nell'ambito di un'economia europea integrata. Eccolo, avete sentito il lungo nastro di asfalto. Nel 1962 viene inaugurato il tratto dell'autostrada del sole Napoli-Roma. Allora, il sud è sempre più vicino al nord e gli italiani a bordo delle loro macchine continuano a spostarsi sempre di più. E il 62 è anche l'anno di un'altra grandissima inaugurazione, Franco. Incontro sotto il Monte Bianco. A bordo di un elicottero giungono all'ingresso del traforo del Bianco dalla parte della Francia il presidente del Consiglio Fanfani e il primo ministro francese Pompidou. Dopo il taglio del nastro, i due capi di governo assieme al ministro degli esteri Couve de Mourville e al nostro sottosegretario agli esteri Russo percorrono il tunnel su un carrello elettrico. In territorio italiano ha luogo un ricevimento in onore degli illustri ospiti. Il traforo, che costituisce un nuovo legame fra l'Italia e la Francia, incrementerà notevolmente gli scambi turistici e commerciali fra i due paesi. Gli italiani e i francesi si incontrano finalmente, ma gli italiani arrivano prima, il 3 agosto, e aspettano i cugini che arrivano il 14 agosto. E lì c'è il famoso abbraccio. Lo sai che molti tra i 400 operai si mettono a piangere per l'emozione? Ci credo, Alessandra. Ci credo. E lo sai qual è la prima merce a passare dalle mani francesi a quelle italiane? Secondo me lo indovini. Il parmigiano reggiano. Bravo. Lo champagne, Franco. Dal buco i minatori francesi passano 4 bottiglie a quelli italiani. Ma scusa, arriviamo prima noi e loro ci danno le cose. Sarebbe stato più giusto che noi avessimo dato a loro qualcosa di nostro. No, loro ci danno lo champagne per brindare. E noi ce lo ritorniamo, giusto. A Milano invece si fanno le prime prove delle vetture della linea 1 della metropolitana. Ma il 62 è anche un anno molto importante per la scuola, perché è l'anno della riforma di Amintore Fanfani, una riforma che è stata definita tra le più importanti del dopoguerra. Viene ampliata la fascia dell'obbligo fino a 14 anni e i libri delle elementari diventano gratuite. Ma poi, Franco, questa cosa secondo me ti interessa particolarmente perché c'è una novità anche nel settore della moda. Nasce la Camera Nazionale della Moda, però comunque ancora se vuoi comprare un vestito, ancora vai dal sarto sicuramente. Cioè se vai a una festa per ballare il twist e vuoi essere particolarmente elegante, vai in sartoria. Assolutamente, io lo so perché mia madre faceva la sarta. Io qua volevo arrivare. E allora quando arrivavo a casa, signora mi raccomando faccia in fretta perché devo assolutamente andare a questa cosa importante. Quindi non c'era, tu entravi in un negozio e ti compravi la cosa. Cioè quelli che volevano essere fighi si facevano fare le cose. Mi tira un po' qui, stringo sì, un po' lì. Sì, è così. Comunque, visto che hai questa passione per Napoli, senti questa. If you should ever go to sunny Italy, you'll find your paisans there are singing this. Facimma la twist, la la la la la, facimma la twist, la la la la la, no tarantella, che bella twist, la la la la la, you can bet. Fa facimma la twista. Cioè, hai capito? Cioè, sono anche twist, un po' preoccupata, ma guarda la mania. Ma è un sacrilegio, Alessandro. Facimma la twist. Questo è Facimma la twist di Frank Verna. Allora, secondo me si chiama Averna, perché capito? Cioè, per venire fuori con un concetto twist, o sole mio, devi essere completamente ubriaco. Comunque, o sole mio, tutti, da Elvis al twist. Guarda, nel 1962 hanno twistato anche quelli che non ne avevano assolutamente bisogno. Vieni a ballare il Peppermint Wheel. Questa è proprio la danza del Peppermint Wheel. Si balla così il Peppermint Wheel. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta... Mix 24 estate. Vieni a ballare il Peppermint Wheel. Questa è proprio la danza del Peppermint Wheel. Si balla così il Peppermint Wheel. Peppermint Twist, Adriano Celentano. E non ne aveva proprio bisogno di twistare, cara Alessandra. Rieccoci con Franco Schipani. Io sono Alessandra Fiori, a Musica e Storia, Mix 24 Estate. Oggi siamo nel 1962. Quindi non ne aveva bisogno Celentano. Non ne aveva assolutamente bisogno, perché nel 1962 Adriano Celentano, il molleggiato, beh, senti quanti pezzi ha piazzato in classifica. Pregherò per te che hai la notte nel cuore, e se tu lo vorrai crederai. Mezzaluna splende in cielo, romantica, la mezzaluna canta in cielo, fantastica per noi. Io che ho pianto per te, pregandoti di stare con me, mi pento perché non ti voglio più, non ti amo, non ti credo, e perciò stai lontana. Stai lontana da me, Adriano Celentano, non tu Alessandra, non tu Alessandra. Non io. No, poi c'è la mezzaluna sempre di Celentano, è Stand By Me, pregherò, nella versione di Celentano del super molleggiato. Come vedi, non aveva assolutamente bisogno di molleggiare. Però molleggia. Molleggia. E invece Franco, io ti vorrei riportare un attimo a Fanfani, perché il 1962 è proprio il suo anno. Il professore di economia alla Cattolica di Milano, il 21 febbraio, sale al governo e inizia le sue riforme, la scuola, l'abbiamo già detto, ma anche l'energia elettrica. È un governo tripartito di DC, PRI e PSD, un governo che nasce con l'appoggio parlamentare esterno dei socialisti, che per il momento storico è una vera e propria rivoluzione. Il regista di questa formazione politica è Aldo Moro, segretario della Democrazia Cristiana, che parla, pensa, per 7 ore di fila al congresso a Napoli. E un altro democristiano diventa invece Presidente della Repubblica, è Antonio Segni. Ma il 1962 è anche un anno di svolta per la Chiesa. La Basilica di San Paolo, parata a festa inondata di luce, accoglie Giovanni XXIII, giunto per partecipare alla festa della conversione dell'Apostolo sulla via di Damasco. Il Pontefice ha scelto questa occasione per annunciare ai cardinali convenuti nell'abbazia la convocazione di un concilio ecumenico, il 21° in 20 secoli di storia della Chiesa. È significativo che Giovanni XXIII abbia voluto prescegliere proprio la festa dell'Apostolo della Genti, perché nessuno, forse meglio di San Paolo, poteva presiedere ad un evento che non solo farà convenire a Roma i vescovi di tutto il mondo. Ecco, nella Basilica di San Paolo, fuori le mura, Papa Giovanni XXIII annuncia il Concilio Vaticano II, che è un concilio ecumenico, quindi aperto a tutti i cristiani, anche ai non cattolici, ed è un momento di svolta per la Chiesa. Invece l'11 ottobre del 62, Papa Roncalli, chiamato a gran voce dai fedeli, pronuncia queste parole. Cari figlioli, sento le vostre voci, la mia è una voce sola, ma riassume le voci del mondo intero. Qui tutto il mondo è rappresentato. Si direbbe che persino la luna si è affrettata stasera osservatele in alto, a guardare a questo spettacolo. Tornando a casa troverete i bambini, date una carezza ai vostri bambini e dite: questa è la carezza del Papa. Troverete qualche lacrima da asciugare, fate qualche, dite una parola buona. Il Papa è con noi, specialmente nelle ore della tristezza e dell'amarezza. Pensa Franco che il Papa questo discorso lo fa a braccio, storico e poetico al tempo stesso. Ed ecco forse perché io quando lo sento ogni volta mi vengono proprio i brividi, non so, cioè lo sento che è naturale. È naturale. E quindi mi coinvolge, mi commuove, ogni volta che lo sento mi commuove, Alessandra. Franco, però ti voglio dare anche un'altra notizia, perché dopo qualche anno di relativa pace sociale, nel 1962 scoppiano le proteste degli operai. I sindacati chiedono una riduzione dell'orario lavorativo da 44 a 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni invece che su 6. E il 62, infatti, viene ricordato come l'anno di un grande sciopero, quello degli operai della Fiat di Torino, davanti ai cancelli di Mirafiori. Ci sono scontri con la polizia, vengono fermate oltre 1000 persone e la Fiat licenzia 88 operai, che sono in maggioranza membri della FIOM. Insomma, inizia il periodo delle grandi tensioni sociali, dei grandi scioperi. E invece immagino che da qualche altra parte tu mi vorrai dire no, che... No, Alessandra, a Sanremo invece non si sciopera proprio. I miei sorrisi e i tuoi si sono spenti, noi camminiamo insieme e siamo soli. Ci restano soltanto lunghi silenzi che vogliono dire addio, addio. Addio, addio, Domenico Modugno, che con questo brano vince il festival. Però. Il vincitore morale del festival è questo brano che ha avuto un successo planetario. Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando. L'anno, il giorno e l'ora in cui forse tu mi bacerai. Ogni istante attenderà. Dimmi quando. Tony Renisek, questo brano l'hanno proprio cantato tutti, da Pat Boone a Michael Bublé. Ma lo sai che questo brano è andato anche a finire nella colonna sonora del film rock più importante nella storia di questo genere musicale, che si chiama i Blues Brothers? È il più importante. Assolutamente, beh, è un cult. Sai come è successo? Come? È successo così. Ecco, quando sono andati con la produzione a Chicago per fare il film, ho detto: che dovete fare qui? Ma distruggere 4 ospedali, 508 della polizia, poi c'è un building federale dove dobbiamo allagarlo. Dice: beh, insomma, vi dobbiamo dare una grossa mano. Sì, ecco, ci potreste fare una cortesia? Cosa volete in cambio? Erano tutti italiani, ovviamente, quelli dei sindacati, e gli dissero: ci potete mettere una canzone italiana? Ma come facciamo a mettere una canzone italiana in un film rock? Ce l'hanno fatta, guardate su Google, andate a trovare quando. Questo denuncia i tuoi tempi. Ma dai, Google, Spotify. L'ha detto, Google, voleva sempre dire Google. Mi riprendi, se io lo dico all'americana, Google. Scusami. Ok, comunque andatela a vedere, Blues Brothers, quando, fatevi veramente due risate. Dime quando tu verrai, dime quando, di un giorno l'ora in qui. Vabbè, meraviglioso. Comunque, fantastici Blues Brothers. Io che sono di un'altra epoca. Cosa vuol dire? Che io sono anziano? Stai cercando di dire che sono molto giovane. Però, comunque pensa che sono così mitici che io alle medie con la mia migliore amica, la compagna di banco, mi sono vestita da Blues Brothers in bianco e nero. Ah, non sapevo esattamente perché, però sapevo che andava bene, che era giusto farlo. Brava. Comunque, invece, il 9 luglio del 62, per la prima volta sul piccolo schermo si vede qualcosa di molto molto diverso dal bianco e nero, ma siamo solo alle primissime prove, perché le limitazioni tecniche sono ancora molto. Insomma, dobbiamo aspettare parecchi anni, fino al 77, perché la TV per gli italiani diventi a colori, Franco. Ecco Alessandra, eppure a Sanremo di queste mode di questa rivoluzione non se ne accorgono assolutamente. Sai perché? Beh, te lo spiego in musica. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Mix 24 estate. Franco, ci sarà un motivo se il Festival del 62 è un po' un flop? Beh, un flop, hai sentito gli ultimi brani? Sembrava sì, Franco. Radio 1940, una cosa del genere. Comunque. E invece Franco, bentornato Franco Schipani, siamo nel 1962. Assolutamente. E stiamo raccontando il paese attraverso la musica e la storia, e Franco mi ha fatto sentire dei brani bellissimi. Grazie Alessandra, grazie. Comunque stiamo l'ultimo parlando di soprattutto storia. Soprattutto chi era Inventiamo la vita, Nunzio Gallo. Sì, Sergio Bruni con Gondolì Gondolà, aspettandoti di Tonina Torielli, e poi Inventiamo la vita di Nunzio Gallo. Vedi che ti vedo preparato. Hai visto? Su Nunzio Gallo. Comunque, per quanto riguarda la storia, quella di Ezio Radaelli, che ha organizzato il Festival Sanremo per tanti anni, cambia perché? Perché sta organizzando il Cantagiro estivo, cara Alessandra. Ovvero, immagino, l'antesignano del Festival Bar. Sì, è una specie di Giro d'Italia, però ci sono, invece di essere i ciclisti, ci sono delle macchine decappottabili con i cantanti che si fanno vedere mentre vanno per le piazze, mentre vanno da una città all'altra, quindi creano aspettativa, e poi si fa una grande serata finale dove ci sono tutti gli idoli del momento e insomma grandissimo successo, perché ci va un sacco di gente. È un fenomeno popolare, Alessandra. Insomma, ecco, l'hai detto, quindi il Cantagiro supera il Festival. Assolutamente sì, pare proprio e cosa, di sì. E cosa succedeva invece al Cantagiro? Fammi sentire. Dai, ti faccio sentire cosa si ballava quell'estate. Quando la tarde languide e serena se la sombra è la che tutto lo scappetta la quel bene a sentir e c'è triste un canzion di amor della via moglie la che nel letargo della notte se sfugge che mi quando caliente il sole while they tantalize. Don't play that song for me, it brings back memories of days that I once knew, the days I spent with you. Oh no, don't let it play, it fills my heart. Si ascoltava Quando calienta il sol dei Marcello Sferiale, Creola di Joe Damiano e Don't Play That Song, Ben E. King, cara Alessandra. Ecco Franco, adesso ti racconto io una cosa, ma tu lo conosci il vero nome di Lucky Luciano? Si chiamava Salvatore Lucania. Lo so, non devo fare queste domande a un calabrese. No, quello è siciliano. È però, siciliano, insomma, però siete lì. No, non dire queste cose, per carità, che ti guarda, cioè, il sud è contro questo. C'è una ribellione. Tra noi e loro c'è scilla, ricordate sempre questo. Va bene Franco, comunque Lucky Luciano non è molto Lucky nel 1962. Perché regia c'è buttafuoco, che lui è siciliano e dice no. Anche lui faceva questo segno, dice no, noi e loro siamo due cose completamente diverse. La giusta distanza, Franco. La giusta distanza. Lo stretto e largo, lo mi stretto dicono. E largo, capito? Va bene. Come diventano creativi quando si parla subito del sud. Comunque, nel 1962 Lucky Luciano non è così lucky, perché, senti questa storia, contattato da un produttore cinematografico interessato a girare un film sulla sua vita, si danno appuntamento all'aeroporto di Capodichino il 26 gennaio, ma il boss muore colpito da un infarto. Il 62 è anche l'anno della conclusione vittoriosa della rivoluzione algerina. Il 5 luglio del 62 il governo provvisorio algerino decreta la giornata di festa nazionale che celebra l'indipendenza del paese dalla Francia. Libertà Francia, libertà. Ma la guerra per eccellenza di questi anni è la guerra fredda tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, ovviamente. Ed il 1962 è uno degli anni di massima tensione tra i due blocchi, tra le due potenze. Per 13 giorni il mondo intero vive l'incubo dello scoppio di una guerra nucleare. È la famosa crisi dei missili a Cuba che inizia il 15 ottobre. Tu te la ricordi, Franco? Assolutamente. Davvero? Sì. Davvero? Beh, la cinematografia è piena di bei film che hanno come soggetto, secondo me, loro hanno fatto questa crisi proprio per farci i film. Perché cioè, perché così Kubrick potesse fare Il Dottor Stranamore? Una cosa del genere. Io ho questo sospetto. Vabbè, comunque io lo so che tu vuoi continuare a parlarmi del festival, che è il tuo amore odio. Allora, cos'altro hanno sottovalutato? Hanno sottovalutato, cara Alessandra, qualcosa che veniva proprio dalla porta accanto. Brigitte Bardot, Brigitte Bardot, cantata da Michelino. E questo è un successone, Franco? Un grande successo, perché prima della British Invasion, quindi Beatles e compagnia bella, ci fu quella che fu chiamata appunto la French Invasion, sull'onda del mito di Brigitte Bardot. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie? Il faut savoir encore sourire quand le meilleur s'est retiré. Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Perdono per tutte le cose che ho fatto. Perdono per ogni carezza di meno. Erano Gilbert Bécaud e poi Johnny Hallyday, l'ultima Catherine Spack con Perdona. Ecco Alessandra, hai capito da chi ha copiato Carla Bruni? Carla. Carla si dice. Bravo. È ufficiale? È ufficialissimo. Carla, l'ex prima signora di Francia che poi si è inventata anche cantautrice. Non è neanche così male. No. Dici? Ma okay. Sarà che ha un suo fascino lei con i capelli lunghi e la chitarra. A me non dispiace. Tutte e due. Sì, sì. Ho capito. Franco, lo senti questo clacson? Franco, lo senti? È il clacson più famoso nella storia della cinematografia. Io mi domando se loro hanno i diritti SIAE di questo clacson. Potrebbero. Ma. Vuoi brevettare un clacson? Questo lo brevetterei volentieri. Comunque il 1962 è l'anno del sorpasso diretto da Dino Risi con Vittorio Gassman, ma è anche l'anno di una grave perdita per il cinema mondiale. Assassini! Assassini! Bugiardi! Siete felici solo quando potete vedere qualcuno morire! Perché non vi ammazzate voi per essere felici? Voi e la vostra ipocrisia! Vi odio! Godete solo a veder soffrire gli altri! Le crisi nervose e le malattie la incalzano. Non riesce a lavorare. La Fox rompe il contratto e decide di sostituirla. Marilyn è stanca. Dice: non ho mai avuto l'abitudine di essere felice. E per questo non ho mai pensato che la felicità potesse venirmi da sola. Non sono stata allevata come un piccolo americano medio a cui si predica che deve essere felice ad ogni costo. Sono settimane di fughe, di disperazione. Marilyn ormai è sola. La trovano morta a Brentwood, un sobborgo di Los Angeles, periferia di Hollywood. La casa dove è morta non è tanto lontana da quella in cui è nata. Era a letto, aveva un flacone di sonnifero sul comodino, aveva un telefono fra le mani. Goodbye to spring and all it meant to me. It can never bring the... La voce di Alberto Lupo annuncia la morte di Marilyn Monroe. Il 5 agosto del 1962, a 36 anni, viene trovata morta e la probabile causa del decesso è una overdose di barbiturici. Ma in realtà, Franco, come sappiamo, questa è una morte che entra nel mistero. Comunque, muore Marilyn e nasce il suo mito. Ma non è solo il mito di Marilyn a nascere nel 62, perché dalle due sorelle Giussani, bellissime, nasce anche Diabolik. Diabolik, vabbè, lo sappiamo, dai, è un ladro spietato e quasi sempre vincente, fidanzato inizialmente con Elizabeth Grey. Nel terzo numero della serie incontra invece, lo sai, la bellissima Eva Kant. Bravo, e diventerà la sua compagna di vita, ma soprattutto l'idolo erotico sentimentale di milioni di uomini e anche di donne. Intanto nasce anche il centro di produzione di Dino De Laurentiis, Dino Città, uno stabilimento di produzione a ciclo completo, il primo al mondo dove è possibile produrre un film senza che la pellicola dovesse mai uscire dallo stabilimento. Però il 1962 al cinema è soprattutto l'anno di questo Oscar. The winner is Sophia Loren. Sophia Loren vince l'Oscar per La Ciociara di De Sica, Franco. Anche questo molto emozionante, un momento molto emozionante. Allora, il Festival di Sanremo invece non lo è assolutamente emozionante, perché ormai ha perso completamente il contatto con la realtà. Non promuove artisti nuovi, non promuove musica nuova, comunque la melodia, quella sdulcinata, è dura a morire. E alle nostre porte arrivano i Nuovi Barbari. Love Me Do, i Beatles, i Barbari. Finalmente, alle nostre porte. Sono arrivati. Sono arrivati dopo tanto tuonar piove. Ma c'è un'altra invasione, questa volta arriva dagli Stati Uniti. Johnny boy, take it slow. Don't you know? Don't you know? She may kiss you like Abby. She may hold you. Allora, Nancy Sinatra con Like I Do. Attenzione, ho detto Sinatra. No, ma c'è allora un legame, mi è la figlia. Allora, è la figlia. Io mi domando una cosa: allora, chiunque altro si fosse presentato in una casa discografica con questo brano, avrebbero detto probabilmente, ma mi sembra un po' deboluccio, non mi sembra una cosa, cosa da classifica. Mm-hmm. Però di cognome si chiama Sinatra. Allora, nell'indecisione, dice, vediamo un po', si chiama Sinatra, io quasi quasi il disco. Posso dirti però? Dimmi. Anche che coraggio. Ti chiami Sinatra e scegli di fare la cantante? No? Beh, ci vuole... Pensa Meryl Streep. con la figlia che ha scelto di fare l'attrice. Ma non succederebbe mai. Ma è successo ed è anche brava. È pure brava. È anche brava. Allora, buon sangue non mette. Ma infatti Nancy Sinatra poi ha avuto successo e se lo mette perché è brava. Ecco, però devo dire una cosa su questo brano. Pensa che questo brano, che è stato scritto da Milka Reponchielli nel 1876, che si chiama appunto Il balletto per opera, di un famoso suo balletto che aveva scritto all'epoca, ecco, Walt Disney lo adoperò nel celebre film Fantasia del 1900. Fantasia. Grazie. Google, hai capito? Va bene. Amilcare Ponchielli. Allora, Milka Reponchielli, La danza delle ore. Fantasia. Ok. Va bene. Ok. Franco, invece, la sera del 27 ottobre del 1962 è una serata tragica perché è la sera della morte di Enrico Mattei. Noi siamo dei poveri, abbiamo bisogno di lavorare e non possiamo più andare all'estero come dei poveri emigranti che non hanno nessun'altra forza che le proprie braccia. Noi vogliamo andare anche noi come imprenditori, con l'assistenza tecnica e con tutto quello che un paese moderno come il nostro oggi può dare. Era Enrico Mattei, un uomo coraggioso, un uomo del futuro, un visionario e pragmatico al tempo stesso. Il piccolo aereo su cui stava viaggiando in quella notte del 27 ottobre nel 1962 si disintegra nel cielo di Pavia e muore così il fondatore dell'ENI, l'uomo che ha contribuito significativamente allo sviluppo energetico del nostro paese. E proprio alla fine dell'anno Fanfani riesce a portare a casa la legge che nazionalizza l'energia elettrica. Nasce appunto l'ENEL, questa grande azienda di Stato che deve portare l'energia elettrica in tutto il paese a un costo relativamente basso. Franco, adesso però siamo arrivati alla fine di questo... che sei contento. Molto contento di salutare il 62. So già che cosa abbiamo in programma. Ah, lo sai già, anch'io Franco, un pochino. Possiamo farlo con... con quello che è stato il protagonista assoluto del 1962, che è Adriano Celentano. Certo, ovvio, giusto. Però tu lo sai che non è proprio Celentano adesso. Lo so, sai. Come sempre una rivisitazione, vai Emigliaccio. E quindi è una canzone dei tuoi anni che diventa dei nostri. Tu insisti con questa cosa dei miei anni. Mi piace. Ma in realtà Franco è simbolo di debolezza e di vecchiaia. Tu mi devi perdonare. Di anzianità. Esatto, volevi tu me la devi passare per questi motivi. Te la faccio passare. Sì, buono con me. Allora, è un Celentano cantato da Vinicio Capossela, che ha fatto suo uno dei pezzi forti del 62. Ma noi ci rivediamo nel 1963. Se non divento troppo anziano, sì, certo, Alessandra. Va bene, bravo. Si è spento il sole nel mio cuore perché non ci sarà più un'altra estate d'amore. I giorni sono fredde notti per me, senza più luce né calore. Caldo mare che ci ha fatto incontrare, un vento gelido mi porta il dolore, la bianca luna che ci ha fatto sognare, si è spenta come il sole d'oro. Muore nell'ombra la vita, nel silenzio di tanti ricordi, forse l'estate è finita, t'amo ancora. Spento il sole, chi l'ha spento sei tu, da quando un altro dal mio cuore ti rubò. Innamorare non mi voglio mai più e nessun'altra cercherò. Thank you.